chi è? Boboi! Beh, Boboi, se c'è già paghette. Niente, mi pare che andate a pigliare. Ho fatto lettini umidi. Fa pure rugura questa macca. Ah, vai, macca. Se ti sei dietro, di musticheggia. E allora, gli hai fatto rugato. Cazzo, li bonero bannolino e le arrossicchenti di rugura, ansura. Imbecille. Allora, c'è una tenda da pigliare questi barchi, che c'è un calore umido, pagando di caca che la buri con visse. Pucci, pucci. Gatta, la fai vedere il minore, gatta, e siete pure i cacciucci minore. E allora, pannolini, fazzolettini, fumati, ballorelli, faro, guru, rullo, come ti che fai una creatura? So che un barco di le amasse sta a capo. E allora, come buon cugato, lucane, gatta, fai questi cose. Oh, ia! Sta stato di soli cali, insatti di pipella, le mani non vi rimuori in casa, no. Già so, certe volte fanno compagnia, però va, no. Così no, ui, certo. Oh, saranno. Sta sarà cosa bene, cazzo, pare che bene, mi sa che si muore sotto da rammessa. Cucinosa, ma mangiare la morta di fame, Maria, a mezzogiorno. L'ha dato un poco di carri con i garotti, no, che l'ha rimasta. Mi ha tutta tagliata, ha rubiato di blasta, ma ha cominciato a incudire una mossa di fame, Maria. Ah, sì. Ma ci faccio come un solitario, gatta. Ah, sai, magna, no? Ehi, è da abbassare da frigagene, non abbassa pannoline, imbecille. Sta a ringraziare Paoletta Puligia. Pucci, pucci. Ehi, stamane gli esercizi di Burrucci, vuol dire a costa bene. Ehi, quando sono così malati. Per carità. E poi, e zizio burro, dice che ho atteso meglio di un cristiano. E vecchia sì, questo è già aspettato, va. E io vorrei chiamare il veterinario a fare la missione, non buoni. Certo. Per carità, no, no. Arriva, fa che si crede che non soffri a dire di burro. Mi soffri a dire di burro, che era l'unica venuta in un punto come te, mi fai fare un lezione e ciao buonanotte, stati in casa, oh io, per carità, c'è saputo la salute nocera. È un travaglio, Stai a cucare il materassino con la manta, non hai compreso. Non vedi l'ora di che si vede quando si buce mamma mia e comincia a rompere le balle, comincia gnu. Prima si mangia le crocchette, la bocca si murrugna e dalle a sua mamma, non è compreso. Certo. Beh, non rimasta le crocchette che gli dai, o da voi li fatti mari. E ingorda, si dà l'aria sempre a mangiare, 24 su 24 ma niente, da venire i cinerucci. Da venire i cinerucci. Maria, grazie. Vabbè, va finalmente anche che non vivi, che vivi, magari trattenti di la vecchia una notte, io se vuoi fa, però, poi, no, saranno, avviso, canto la piazza, dove? Noi abbiamo i cudizzani, vai, era di figura, no? Però dopo in figura è andata in casa e toccava a noi a battagliarla. Oh, non li razziare mattana, Però no, non li voglio più animali. Ormai, sei no che in campagna, niente animali, no, non mi interessa. Ma che c'è di campagna, che ci dicono di me figliura, gli avrò parlato da Romagna. Io qualche cosa ce l'ho messa a parte qua, quando avanza. E allora mi raggiungi con i crocchetti, la cosa che li pazienta. Lo riso, li piglia il suo riso soffiato. Mi comincia, quando mi avanza cosa, non che mi dà roba. Lo mani dolce, li dopo. Un travaglio, un giramento di cose proprio. Per carità, oh, non è che non entra nel vino, cari mati, non saranno. Ehi, quando tu sali, magari è tutto altro discorso, ma quando cominciassi a una festa d'anni, invece di anche pure essere malanni, è una rottura, capito? Ripeto, quando tu sali, giovani la fa bene. Però quando fai un animale sei privo di quasi di sciarlucco, ecco, perché perlomeno noi abbiamo fatto così, sei privo di sciarlucco quando devi cercare male, a chiara giura non li lasciavano di noi assolutamente, e per cui toccava stare in casa con essi. Sa che botta se mi ci tira sulla casa ibido da rato. Cosa mi mancavo tutta la sera? Beh, tutta la sera a Bagenne, vasi a un casino unito, sempre a Bagenne. Rompe. Cade così, rompe, che certo. Anche di sempre questa musica, per carità. Se mi danno i tuoi niente di buona, che era tutto romanzano, vasi che andò su un paletto a fare il pesa. Era qui in terrazza, sempre a Bagenne. E tu si fa la fila a campagna, si fa la campagna che tu vuoi mangiare, fare fino a buono e si nati, deve essere in campagna. Dopo Paoletta, è la bella se tu i cani che sono morti a Cabogna di caccare su Cabogna, che va feo, attaccato, che ci sono due leoni. Per carità, un attimo, grazie. Vittore Mormito, sì. Vento. Ebbene, signor Figaro, è da fare andatoci, sì. Marchisio. Vento, buonasera. Ciao, festa hai fatto oggi, non ci sei andato. Da festa, io lo vado sempre. Piova, non piova, vento, non vento, vado sempre. Se una giornata non me la segnano. Beh, sta il caro gol, oggi è sabato. E noi ti sta di bagabulo sabato, no? Oggi è doppia. Oggi è doppia questa cosa come sia straordinario. Ah, così è. E sentito l'aria a torre senza motore. Non si è sentito il suo motore, che ci ha preso un capo, non c'è un motore. E avanti tutta Recci, mi e ci le ridegno sotto i baffi. Sì, tanto anche lui già muore, e già muore anche lui, grazie. Cosa fa? Siamo lì della torre che muore. Avanti ci le ridegni, a Casubranca. Chi sa cosa ma niente. Ah, io andato a portare un cane a pisciare. Chissà su burro va la gumbata, per carità. Quando crebagliso non entra nel bucale, né no che ne in campagna me ne bisogno. Oh, chiuso! Sì, infatti, è un problema, eh. Io non c'è lui che ho fatto molto finora. A me sono due cittadini, perché devo uscire con il pantalone. Vabbè, sempre a fare la magna, però devi pulire le leva, queste cose le devi fare sempre. Chi su candela sano toccava sempre a fare la giosta, a salire, a vaghe e marata e a tre anche bura, che un'anca mi approccia, con un ballolino, dunque, come ti fa ad andare a fare giosta? Va rubando. Ciao, buon viaggio. Ehi, grazie bongo un italiano bosco, l'altra, che pare matto se non mi soglio, guida, guida uno e te guida due. Se la bongo a fianco a guida, così guida ne mi rimane allo salvetto. Guarda la giureggia del culo, non lo faccio. Si di compagnia. E allora, anche se ne stavi a bosco, burla a fisarmonica soglia, prende la caccetta. La giostola e la copertina ce l'aveva freddo. Non arrivo un bambino con le cose. Cosa? Non arrivo, non c'è che non arrivo a tempo di vicino. No, gli ha venuto il bambino tutto in giro, ma no, gli puzzate un viaggio. Dove è scoppiato? A te il telefono. Che è avanti? Chi è che ha parlato? Chi è? Siamo parlato sopra, non ho capito nulla. È caduta la linea. Se non riuscire mi prendono più tardi. Ha scritto brutto e non mi ha risposto nessuno. Marino, ci sei? Forse la siciliana. Ah sì, forse la siciliana. Buonasera, signor Bacchisi. Buonasera, Gio Maria. Buonasera, mi ha ascoltato. Di bicicletta sarà? Forse scendi in bicicletta che lo voglio rimpingi. Però c'hai, basta la radio, Bacchie, chiara e chiara. Però basta la radio, forma segnale la radio, un bel basta, Ma il microfono normale sai usare. L'abbiamo verificato, ma sono a 50 cm lontano. È perché la bassa l'ha dovuta sollevare. Bacchie, graziale mi spaccia i timpani. E tu invece sei un bel passo, allora tu che sta sempre e abbassendo. Ma tu stiamo arrivando forse anche qua, più forte di te. Prima fa del giorno quando fa vita. Sto c'ho lontano mi, c'ho il braccio lungo sul tavolo, ho mezzo metro. Ma è forte che mattina, forte, forte, proprio, più forte di Giovaria, Giovaria non. Neanche a metà della voce tua. Potenza ce l'ho anche chiusa qua, ma è tutta chiusa, è a zero. Capito. Ah, così è Gian Maria, ancora basso mi senti? Oh, se parlo una voce bassa che mi doveva ora. Forse sarà paese allora, Bacchi. No, ma infatti, dalla radio tua, quello è Graziano è più lontano di te. Però arriva fortissimo Graziano, è fortissimo, e a lui c'è un abisso, capito? Allora che c'ha, siccome c'ho anche il televisore acceso, anche per quello magari che già sono mezzo sordo, però Graziano mi fa essere zimpani che ha dopo vita. La porta ce l'ho chiusa, no, non la posso alzare perché ce l'ho stazionata, è 1,9. 1,9, 2, 1,8, 1,9, 2, fate gusti, sale e scende. All'inizio mi sento sopraffolato in un bacchetto, grazie. Ora c'è la minimo, la minimo mi passa. Io abbasso tutto, come si chiama. Ma che io abbasso tutto io, a zero proprio. Così che esci come a te. Tu magari sei abbastanza, non sa, non c'è bisogno. Già ti sentiamo ugualmente, capito? la foglia, io pure ce l'ho, ho chiuso tutto, capito? Però va bene, quattro fatti esce benissimo, tutto chiuso, capito? No, tutto chiuso, perché se lo sollevo mi aumenta le stazionarie, dunque lo devo tenere così. Ehi, lascialo così che va bene. Da, va bene così. Vai, macchina. Non te, non c'è giomolino, no, giomoliano, grazie. Come se la sta portando con l'antenna? No, non la vedo io da dentro casa, da giù si vede. Ah, penso che sia ferma, perché tre tirante di cannao viso, un altro ne dobbiamo aburire dall'altra parte per metterla in tira proprio. Però già rimane vivi e se ne pare che ne pare nata la gabbissuglia. Che non sarà all'altro. No, mi interessa, mi è stata pure due che si fa, mia moglie, dato che è stata con la nipote, ma fa una domandina a casa sua, mia nipote, a chi ne è brincato di turbamento dello salone, e lei è stata a fare la domandina a che andare a far via. E mi ha trovato a metà Paoletta, e dice, già lo sappiamo che dobbiamo intervenire lì. Quando sono disponibili gli operai, fate quanti vi piace, quando si brucia la tromba delle cari, venite, venite. Mi più di buona casa, vorrei. No, ci sono messi da papà. L'altra fianca l'abbiamo fatti con un deluco, quando mi la tromba con un deluco l'abbiamo fatti con un deluco. Venuti, l'hanno messo, quando sono salito io, quasi un mattino stavo a ciucchettare le rusalbite, a rompere le scatole. Poi non ci sono salito io il giorno che lo stavano facendo, no, sono salito all'inizio. E a lui ci erano venire il rattoppo, e la giù il cazzo il rattoppo li vede in casa vostra, ma chi da rattoppo, io gli ho strugato tra il muovo. Allora, sospesa, ci ha mandato un geometra, giunto un geometra, controllato e ne ha mandato tutto il gatto negatramato. L'hanno botto poi io, me ne sono sceso e cosa hanno fatto? Hanno botto un gattone, da bene, hanno botto i cimattoni in giro, rui, in cotto, e un collante, l'hanno botto in alto il gatto negatramato. La Vigli ha fatto il 51 volte in attrappato, quasi tutti i mattoni in carriera, in pericolo di ammazzare la gente che aggattava gli osso. Una cagata lì va, è logico, non attacca via, non attacca né mattoni al cartone catramato, al momento attaccano, poi si stacca. Poi ne ci druga tramo 20 oggi, 20 domani, e beh sì, mi ha preso, era molto lato là, anche il cosa lì che ci ho passato, era molto lato là. Allora ci siamo lì, si trovano infatti di chi si è appaltato, ragazzi, per carità, ragazzi. Non li fatti, no, noi l'abbiamo fatto anni fa, ma hanno fatto una cosa ben fatta, ragazzi. Adesso c'è un mezz'anno, avanti, 10, 12 anni, ma è perfetta ancora, è perfetto, ragazzi, cioè, ma un di difficile di farsi graziare proprio da cose, da gente guata a fare cose del genere. Ma se male ci possiamo i cimattoni, che a te sono i cimattoni, non attaccano i guastoni che attraverso. Sì, magari attaccano momentaneamente, ma poi con un calore si distaccano e gli si, secondo me, quando in quella carriera, ma se la cura la ammazza. Ma che non è stato, non tiene il mantello. Se un cassone non era attaccato, capito? Se un cassone è stato attaccato voi, posto voi, caduto voi, attaccato a terra, i mattoni non li hai caggiuti, li hanno intesi. Invece un cassone non era attaccato e dato il momento ha fatto voi la aiuta giorno. Non hanno attaccato Catramo, non l'hanno sciolto e friato con la baletta nei bordi. Hanno i bordi, hanno i calciuti così, l'hanno l'hanno rotolato, tagliato e la pezza nel buccio, rimasto un innanzi così strubato, che sta se se ne sono andate, non hai compreso, che non ha ne pezzo di tempo, bucaccione, io sei bucacciona. Come ce l'ho mica, l'ha fatto, che presera l'ha fatto, che c'è? Noi non ci ho messo a vedere le case popolari. In appalto alle imprese esterne e bisogna vedere che impresa era, se era impresa da 4 di là, vedi che papà ci voglio se quanto sentire, ma io venivo lì in esempio. Cacca impresa di morti di fammi, da una figlia sui video che erano tutti butti male. La mamma ha messo quando sono cassati, vedano due bizzi notti, vedano. E la gente cosa state facendo? Mettendo il rattoppi, no, rattoppi ti ribono in casa tua, chiama il geometra e non mettere un cazzo qua. Qua ci vuole tutto il catrame, non lo vedi com'è, quello vecchio. Cosa sei pure nel rattoppi? E allora ha mandato un giovane, giusto un giovane, tre alzate, abbezzate e ne ha mandato un furgone con tutto un catramo e chi si matò. Poi io me ne sono sceso, se no li avrei controllati a vedere come cazzo lo stavano saldando il catramo. Invece mi sono comparato che doveva uscire e hanno fatto una cagata. Una cagata che anda male in chi va a saldarlo, ma che è infalata, la pendenza è un bene, non si mantiene. Io sono negli assenti, non da sopra delle pareti. Hai arrivato da sopra delle pareti, e tu che non avevi che caduto, invece si faceva da io sono assenti. Perché era tempo di cadere e attaccarlo. No, guarda che già c'era legato, quello che c'aveva il cannello. C'era legato alla staffa dell'antenna mia con la corda. Dunque, lo buttia a cartino che tra me. E attacca a lui. Ripeto, senti inesperta, capito? Senti inesperta che l'ha fatto così. Noi era del mestiere, allora ci siamo lì. Esattamente, senza popolare ha pigliato questi, questi cipitù che sono in insieme a cominciare a trovare, a fare il suo lavoro, magari e i lavori non l'hanno fatto bene, ma chi ha fatto bene un lavoro, non si risacca, non si risacca assolutamente. Ripeto, i nonchi, c'era un geometro sempre sopra e il lavoro, anche questo l'hanno fatto bene, ma per avviro, e io metto a fare, ma così la bicicletta i rubiamo di sopra, capito? Non c'è bicicletta nel manco, non va bene attaccato, e ripeto, è un mezz'anno, a viro, ma evidentemente i vivi proprio si risolvono tutti, proprio chi pittò a fare il lavoro del genere, così è grazia. E allora? Due cipitori la negizi, un'impresa di mosche di fame di piazzi, di chi fate nei travagli trubacchettaggio, non hai compreso. Come te dici che sono giunti, che hanno tagliato tutti gli alberi, no? Che hanno ragato, un cappistello hanno ragato, un metro, che ha mezzo metro di tronco d'albero, mica la fate sono giunti e ne hanno tagliato a raso terra. A chi deve essere andato a incacciare e non l'hanno pagato a chi vedano tutti i cibi spezzoni degli alberi ancora attaccati alle radici. Sono venuti chi sa che danni l'hanno tagliato il burino che avevano a raso terra e deve essere se no non ripagavano, non è compreso, non l'è andata la buttitura. Allora ne hanno tutti tagliati che ci spuntano i vilani. Hai compreso? E infatti ha giudizio che ha tirato la mia sopra la terra, mi pare che fino a lì, quindi sono 20 centimetri in trifura, cazzo. Ma chi sa, i miei, poi la ricamata, poi il radice, fa un fosso e cavalieri da di sotto, e da poi torna in carraggiare, invece ha rifatto un'impiazzata, però, va. piaccio piano di verre, per cui andavi bene, dai. E beh, andavi bene, sì, anche tanto il budrone che ne lo mattessimi. Pure io pensavo che ne cavava le, quella radice in muro, anche fino a via ne, chi si rispetta a babbucare la radice, invece cosa ne fa? È tagliata la terra e le sale tutto sopra, la si cattura con un poco di terra, fa far vedere che ne era bucata di giù, compreso. A chi è che secondo me ne doveva ne tirare pure le radici, invece ma fa veloce, chi? Avane fatto così. Perché ha fatto male il temporale, gli ha rimigliato un assistente contrario come integraziato. Allora gli era facendo fatta vera cosa. E invece l'assistente mi pare che era d'accordo con mettere l'operaio, ma chi si è morto? E manchi me, che il popolare guarda lo geometra. Il geometra, non è il geometra visto, era un maniale malo puro. E che spazio per il geometra, gli usi niente. Sì, e va. Oggi che si faccia passare a fattatori che c'è quindi sono veramente travaglio, ma cosa travaglio? Fatti la meta appunto di portarsi questa impresa da Cine, però da voi gli arrivori di là. È un travaglio fatto alle me ne frego, capito? Ma già lo sapevo già, come te. Si la fuggi pure il popolare, non li controlla, ecco, non li controlla e fate i suoi voli. Che sono io con i ribizzini, l'hanno buttato a bulloni e l'hanno tirato tutti i sedili, ma come l'ha recuperato mia moglie, per la ginocchio mi hanno rotto. Allora andava là, a venire cacca e cane di chi mi li dopo, anche l'altra volta ne avevo recuperato uno e mi l'ha aiutato. Oh, a che male ci devi venire a trovare la piazza e tu qui schierai, chissà se vi viene in più e ti sta abbandonando i vivi. L'altalena là, l'hanno sgangherata, l'hanno soggiunta, ne l'hanno domizzata e se l'hanno imbucciata, non sono più whisky. Chi si, gli arginetti che hanno fatto sono tutti abbandonati, per carità. Fatti che hanno fatto la piazza, e cosa cazzo hanno fatto? E tutto abbandonato. E tu te ne pulati. Mi sa, questo è il cazzo che sta niente, non lo si può fare mai. Collaborato. Avete paventato in due. Riprende Gianmarco, cosa ne dice? Ha giudizio che si da fuggire, non pensa a niente, pensa solo a incacciare e basta. Il travaglio l'ho fatto bene. Bisogna rompere il cazzo ai testi, se no non si muovono, grazie. E tu Gerusalemme già sei capace a rompere il cazzo ai taglietti, via di giro. Io ve la giustava, non me la putti, come ti ribiate in voce Ale? Infatti se mi ci faccia una cosa meglio me la consuevo, intanto se ha dei taglietti gli hanno i buffi. Capito, Bacchi. Che ho trabili a casa con tutto io, grazie. Quando mi manda nella retta la me la bisio. Beh, tutto questo che fai fatto, non che me l'hai sempre fatto di bucciacca la mia, ma ci chiamato a Eddie. Se l'hai fatto, ci abiti tu, per cui hai fatto la cosa per te, a chi sei detta Eddie, allora pure. E allora, me l'hai fatto a modo mio, come ti voglio io, dopo tutto ci vivo io, ci devo vivere io, vado compreso. Che andrò giù a fare probabilmente il cugino, giù te cosa che mi devi mettere, questi mattoni fare una cosa, buttati se la casa tua, vai a me lo posso io, non vi venire in manchi, no, non faccio fatto io. Ma chi? Ciao Mattore. Ah, c'è il dottore, squalo. Ah, la domanda che sono sono i ceri o macchi? Sì, allora sono i ceri. Oh, che andiamo qua, sì, che lavoro male, che è buco. che non puoi fare più nulla, batti. Sì, alle tre pennato, il padrone, si incontra di Giocò. Se ti piace, corsi la società Giocchi. E allora direi che il padrone di Cuppareggio ha un faro, di chi ci sta a attacchi in capo. E ti fate travagliare con un faretto, vero Gian Mario? Così bisogna fare allora. Bisogna fare così. Ma mangiare la macchina invece un'ora prima, Bacchino, qua fa la campagna. E tutti fuggi quando fara. Poi posso. Ma chi c'è di zico se ne pensa non mangiarlo? Da poi devo dare il giornale, alle 6:30 facendo la campagna. E beh, gioca, non ne vai. Non gioca. Abbiamo approfittato, una manzana che andrà a fine mese perché viene le sacche, vero Gian Mario? Ma ormai Bacchino che riposa di più, va. Prima va bene, ma va Bacchino si riposa, vero Bacchino? No, gioca, mi sono andato l'ultima volta che batteva. In un'ora mi ha fatto 8,5 kg, tu che la via mente la salì, se non può basta, accanto la gioca è finita. Ma questa se la corsa, se la magnata, rimane la finita. Un'oretta, due orette, dai, è andata, ai vivi, il vicino, ed è tornata un mezzo sacco. La porta è macchina, mi ha fatto ieri se l'ha cucinata. Viene da un guanto, rimane ancora un tegamino, e se la mangiate. Una monzetta di lì. Ah beh, un periodo per il monzetta, ma che la monza, no, Bacchino? La faccio sentire la monza è uscita un mese passato. La faccio sentire in e un po' veniva, non vedi niente, guardate, io mi sono andato. Non ce l'ho fatto. Ripeto, che non si faceva, gioca, 8,5 kg, sono 1,4 kg, la c'è fatto pure 23-24, sono stato molto avanti. E c'è già la fine della stessa, gioca, no, Bacchina? Già è il luogo di gioca, no? In campagna, non avevo fatto, faccio i chili, sempre a cogliere poi dalla parte. Noi dove giocano, lo si inacciava, è tutto travagliato, capito? Allora, dei graziani hanno il mozzione, magari gli dici, però a mano non lasciate il dito, lasciate un po' che niente, che deve essere tutto giaccato, no graziani. Oh, vero adesso arrivare a una campagna che è enorme, ma non mi ha messo cantietta lì, e gli viveva di tutto. Si andava non per più nulla, ma con la giochizia e anni a chi aveva il bosco, l'antirumacca, a molto canto per. Cioè lì non è più uscito di lì, non ce n'è più in quella zona lì, nel Calanone e Roma stessi, solo asparagi, ciò che non ha più, né ciò che ne c'è uscita in tutta questa zona. L'antirumacca non è più uscita. Prima è affaldato. Prima anche voi si affaldato, ma va. No, non va avanti. Abbandu su, va a seccarla lì, a piattare i segni. Mirabili, mi la cucina direttamente, se sta in macchina, se sta lì. Chi sei già in macchina, va a seccarla, che ha fatto? Non saranno. Bacchi, si pare che se dai, poi sta andando a seccare ciocca. Certo, non saranno. Se ne è partigiato, non fa di male. Io ho capito, sono cantato. Campagna sarà un chilometro nel manco buco, me la tanca abbandonata, me la dice, mi ha fatto intanto di essere ciocca, mi sono andato la prima volta, fatemi vedere le gatte tre chili, e mi sono portato. non uscire. Dopo un mese mi dia dove da fare, vai taglio, va a fare quel che ha fatto. Il giocatore deve essere caricato a fine mese, non vuole che c'è colpa. Mira, ammazzini, mira. Però va, fece, non lo sa più a chi mi... Mira, non vede niente, mira, lì. Va. Magari ha capitati i nemmi, ma se no la chiappi, però magari se vai in strada, un bel in strada a chiapparle, ormai, fa prima la faceva in su, qualcuno lui si abbassa, perché avanti tutti, appena faceva, tu ripeti, in strada, manca la treccia a sinistra, e sono tutti che li gioca. Così che da quel pubblico c'è la simosa e poi forse non la c'è più. Se dopo bisogna andare avanti, a pochi lupi, no? La gioca tutta l'altra a gamba ferma, la coglie di pubblicità, chi se lo segue e l'agna, a pochi lupi. E poi si distruggenti, non la segue, continua a far lupi, la distrugge, non lo riprendo proprio nulla. E pure chi sa che ha fatto Mauretta, è la vetta, vetta Bizzanti, è buona burro, vetta saurita, di stupida, io non ne mangio. E la Bizzanti, due o tre, così pure, ma non è vetta Bizzantucci. Grazie, mi assento che hanno buttato. Già rientro dopo, dai. Riprendi, ma chi si è domandato, siamo qua. Capito, e da cosa che viene nella linea di un treno? No, no, vira butti. Turino allora ma farà ai nonni e ne faccio un bel quando i nonni non vedono da che la campagna è usa e ne faccio un bel sempre. Dico se ne faccio un bel anche non ne cerchiamo nessuno, ma andai tutti, marito, moglie, figlioli, nipoti, sono tutti, sono i cipetti di cose nei vicini sono ancora camminare, non camminare, sono vicino in braccio da che ne gioca. Già lo so, già vanno in giù, una lì, sono vicino da travagliare, ha giusto i chivi a Platamora, due o tre macchine a Baglia, venivano due o tre uomini a Cuglienne, ha giusto e ci ha visto, così per ciò che ho morto, me ne sono comparato. Della mossa di vita che è fitta una marea mi lascio bene un secchio di ghiaccio di dita lascio tutto 30 rugoffano tutti i ferri e mi lascio bene che su secchio tutto di monza e se buono anche la mossa che si trova la pacina ha trovato lo sentito e ce la vuole mangiare subito. Ehi, sei in campagna la giubbotta di cassetti, con la segatura, mi ho fatto le cassette, poi sono comparato l'indomani a Manzano, buro, e chi su buro con me cognato, e la giubbiena un altro, un bidonietto, abbiamo fatto i cassetti di legna in campagna, con la segatura, e non mi ha ricrassato la mia buca, ma di mia monta, ma buona vero. Bancari, che mi ha regalato un sacramento, poi ha lanciato di là, e così di notte che era un cucchino di papà, mi ha regalato un poco di sabbia di San Gesù, di sabbia fine, e mi ha portato in un recinto fatto di tavoli tra la Monta Lorenzo, allora poi di un mazzetto era tutta registrata. La volta l'abbiamo fatto un bel, ma un bel, infatti l'indomani ha cominciato a arrivare gente, a fermarsi di macchine lungo la strada, a fare a sinistra anche su campo. Tutti i gatti hanno accorso, ma finirà una marea, a fiume. Ci sarà chi ne induva vivo, ogni adurore, a chiedere se è principato, a cogliere pure le orecchie, a cogliere pure le... Ma a pugni, mi, ti pigliavi così a pugni, la terra. Oh, papà, come te la vostra non venne più, pure a San Camillo lì una volta, proprio oggi a San Camillo che ci arrivati, ci hanno aggiunto un poco tra Ciocca, Monza, Goccoi, beh, l'hanno appresso, so che durata andare lì, che ne aveva fatto un bel ingaggiare lì, ma te. E venne i cartelli, messo l'antirumacca, quattro vetrate, manco una venneta. E quindi se ne pone un padrone, l'antirumacca non la gioca. Allora se c'è qualcuno che sta fischiando, oh, no, non vende nessuno per la fiera. Infatti chi vuole entrare, la lianna è aperta, però non c'è niente a bere. Fai così, fai. Grazie al signor Bacchiglio, ciao, grazie. Ciao, eravamo un'ora già menici, a Sicchirri, Gio Maria, pensare bene, da capo si è tirato, unie, cosa sarà? Sarà grugale, boh, riprendi che rientro subito, che vado all'ufficio. Sì, riprendo io, vai in ufficio, grazie a voi, forse anche la mia, all'ufficio. Grazie alla torre, allora. Chi è il giorno alla torre? Oh, signor Bacchiglio. Bacchiglio? Sta uscendo male. Sta uscendo male? È troppo bianco il cazzo. Si sente basso, si sente molto basso, Bacchiglio. Tanto di radio. Io sto molto cuore in questo momento. Ma guarda adesso, io mi senti. Adesso stiamo un pochino in un'azione. Ma? Si tirate più al microfono. Io devo cambiare radio. Ma la cosa che c'è un problema, però non può mai essere il problema, cioè il problema è quasi un po' si quasi si supera a momenti, mentre la siana arriva forte come modulazione, vabbè, nella sua voce, tutto qua. Ok, avanti, Matti. Buonasera. Marino, buonasera. Buonasera anche lei siete si arrivato qua a QRM, boh, io ci ho fumato a QRM qua in questa zona, sentiamo per qualcosa, tu devi sapere stesso segnale, più o meno, sei un po' basso di radio. Comunque buonasera, un po' lo stesso, avanti, io Bacchisio, Giovanni si è allontanato e Graziano è andato un attimo in ufficio, avanti Tore. Sì, aspetta, c'è Luca che sta chiamando, si sta soffermodulando. Già stai uscendo Luca! Luca! Ma stai uscendo adesso? Oh. C'è problemi a uscire. Fai di importante ma non esci. Perché c'è il vento, non sta uscendo. Sicuramente per il vento non sta uscendo. Marino, adesso non mi ascolti. Adesso aumentano un pochino, dai. Invece Tore è negativo, a livello QRM, io ho molto QRM in questa zona oggi, boh, non lo so. A Luca negativo non ascolto per niente, avanti da chi? Ti sento abbastanza bene adesso. Ho cambiato la radio, ho aumentato la radio, capito? Però microfono normale. Microfono normale questo qua. Come va la radio molto bassa, capito? Adesso già va bene, anche il segnale già aumentato un pochino. 9.10 come segnale, va bene, il tuo era quasi 9.15, sinceramente. 9.10 va bene, è ottimo. Come radio focarsi molto bassa, invece a Tore a livello QRM, ripeto, c'ho QRM 9 qualcosa, dunque non è colpa vostra. Avanti, Bacchista, gira a Tore. Ehi, facciamo girare per Tore. Tore, avanti, se ascolti Marino. Io già l'ascolto, è lui che dice che mi ascolta in mezzo al QRM, boh. Io non ne tengo quasi nulla di QRM, devo un bel di QRM, boh. Io sono da QRM, so. Un attimino Luca che stiamo parlando. La raffica di coso. Molto vento, se calma comincia a piovere. Avanti tu. C'è Luca che ti sta soprammodulando. Ho detto Luca, a sentirti io ti sento adesso. Forse abbiamo soprammodulando a Marino. Non lo sento, dai. forse stavo uscendo male perché c'era anche più staccato qua. Così è, andavè. Ari, comunque io ti ascolto un po' gracchiante. No, non ho capito. Mi ascolto un po'? Se stavo uscendo un po' gracchiante, non è limpida come voce. Aspetta. Controlla adesso se va bene. Spero, signor Bacchi. No, io stavo facendo bene. Era limpida la voce. Adesso mi sembra che sia distorta. Avanti Marina, a vedere. Signore, buonasera Luca, ben ascoltato. Avanti Marina. Ok, un attimo, io Luca, un attimo, non ascolto Battiglio, guarda in questo passaggio, avanti, uno, due, tre, prova. A me va bene, a Paolo non lo so, Paolo, come lo ascolti? Prova Maria, a vedere. Ho già provato, guarda in questo passaggio, uno, due, tre, prova, avanti. Sì, vabbè, dai, attacco su, un po' che doveva, va. Comunque non sei limpido. Sono la voce perché se no io non ti capisco, sei molto basso il radio, molto basso il radio. Ripeto, probabile essere cosa mia, probabile dal caos da quel rene, ma con il radio sei molto basso. Bene, avanti, ma chi? Vento ce n'è di giù, vai. Facilmente non si regge in piedi l'uomo. Guarda, c'è un vento, una cosa rosa, c'è l'antenna che sta girando una parte all'altra, sì, lo si va qui. Molto vento, avanti. Ma chi, no? Ok, ciao Antonio Bombolo, buonasera, ben ascoltato anche a te. Ascolti a Tole, c'è Tole, Marino e Luca, e io, e anche il Graziano. Avanti Antonio. Ascolterò un po' a tutti, stavo ascoltando l'amico di quello più basso. Guarda, ascolto un po' a tutti, buonasera a tutti. Babalina, babalina! Sì. Luca. Presto! Così. Come stai modulando? Parlate dolce. Sto passando a forte. E anche tu arrivi bene, dai. Sì, bene, Toro, Pacchino, ma... Marino è basso. Ciao Bombo, ciao Luca, ciao Marino. Bombo, ma non ti avevi venduto tutto? Ma le mie ci sono sempre. Ah, e così mi aveva detto chi è? Me l'aveva detto Antonello, me l'aveva detto Pomponia. Ah, ho venduto un po' di roba, però le mie radio le ho lasciate. Mi sembra ne l'avevi venduto una. Marino, oggi ti intendo il trano, non mi piaci proprio, caruccia. Ciao carissimo, ciao mondo con la ragazza, buonasera anche per te, saluto anche la signora. Ascoltate, io non rimango un po' con il ascolto che è negativo, non riesco ad ascoltare nessuno, solo te ascolto, grazie. E a Bacchisio, a Bombo non è negativo. Comunque se mi stai ascoltando, lo saluto anche, lo super saluto, quando loro mi tiro un po' la testa. Bene, Bacchisio riprendi, non mi ascolto perché è negativo, non ho... c'è molto problemi oggi qua, è molto problemi e non sento nessuno. Bene, Bacchisio riprendi, comunque vi saluto e non mi ascolto. Avanti Bacchisio. Bene, ma ciao allora, non ti sono aspetta però quando lo so che non senti gli altri. Però esce il burro a colpi. Non mi sento di radio Bacchino, non passate un sentito per nulla. Non mi hai ascoltato, in due abbiamo parlato, io e Graziano, avanti Bombolo, mi ascolti adesso. Non è qui, c'è da chi? Sì, si sento, chi è che mi sta trasferendo, attacco amplificatore ieri. Cos'hai detto Maria? Adesso sei arrivato sparato in questo passaggio, 9.15, poc'anzi 9.05, 9.10, è come segnale, vabbè, il segnale così, ma la modulazione è buona. Se io ho aumentato, comunque la cosa che ho razionato è negativo, non riesco ad ascoltare causa correme. Ma chi, dobbiamo facciamo un ascolto, va, ascolto e basta, va. Siamo diventati salutati e quello che ci prende, va, avanti, ma chi? Ehi, siamo a voce Graziano, Graziano dovresti ascoltarlo. Avanti, Graziano. Ehi, io già lo sento, un po' strambo, lo sento, ma già lo sento. A me già mi sente. Attore, non lo senti, ma Chigio, ma Marino. Già una cosa, non c'è molto radio, non c'è basta. Arriva la radio, livello, QRM, c'è molto QRM, grazie. C'è molto QRM, non mi salutano, non vanno QRM, sentiamo una qualcosa. Boh, come si chiama un po' basso. E poi, se provate una compagnia che usa QRM, c'è QRM molto alto, non lo so. Tu avevi sparato, non c'è bisogno di ti dica, ma capo arrivo perché avevi sparato. E come si è pure il cancello, grazie, come non funziona come radio, come segnale. Ma chi sorride? Però è negativo, bomba è negativo, cioè non è corso, non lo segnale, ma emozione zero, penso lì stia ascoltando, comunque va, continuate io di non mi ascolto, va, riprendi, grazie, fai girare. Ehi, rilancio a Tore, riprendi tu, comunque ti sento male, Mari, proprio malissimo, tutto, vai Tore, motore. Cazzo, dici che sono io che arrivo in mezzo al QRM. A me pareva già cazionare, non è puro. Evidentemente è in mezzo al tornado, Marino, ed è Girenni, vero, Bacchi? No, anch'io noi siamo messo bene a stazionare, no? 1, 2, 3, 1 e 3 sono le stazionarie. 1 e 3, grazie. No, io come stazionale, vabbè, 1,07, 1,08, 1,09, 2, sale, scende, sale, scende. Ma per Marino ci do bombolo, gli dovrebbe dare una ventina di bombole e ancorarsi, vero bombolo? Ma io sono a zero di stazionale qua. Io ce l'ho perché va giù, mi devo giambare tutto il capo, oggi lo faccio, domani lo faccio ed è sempre usci, appena va giù il tempo io lo giambo, già ce l'ho il capo. Sei sicuro un capo, sei buono. Luca, come ti arrivo lì? Che segnale mi dai? Sei ancora là? Luca, le piace a fare cucù, Luca ci sei! Sicuramente non sta uscendo bene lui, e poi ci si è filmato. Ah, Luca! Ma Fabrizio qua, lungo 3.30, sta facendo scala. Bombola, quanto ti arrivo io lì? Guarda a me quanto ti sta arrivando, così come sono combinato. Guarda quando scala. Vabbè, perché il capo questo non ci arrivava a tutto, ho messo un bozzolo e ho fatto una prolunga, però non va bene, c'è dispersione, capito? Appena c'ho un tempo libero già me lo metto tutto unico, c'ho il capo nuovo, vai Tore! Sì, anda via, anda! Stasera è tendo chi domani, d'altro, bum brum bam bum, catta che era la di me oggi. Cosa vuoi che dica, Marino oggi proprio brutto, si sentiva malissimo, tutto quanto impasticciato, vediamo se è rientrato Gian Maria è rientrato, sì. Mi sta ascoltando, mi sta ascoltando, ma c'è gente dentro dopo, grazie, fra 5 minuti, va. Io qua, Gian Maria, fatemi assegnare, tutto lo slippero, passato, siamo vicini ancora, che mi ho dovuto attivarti, se no non ti capivo, capito? Arrivavo tutto strappato, tutto malandato, capito? Perché siamo troppo vicino, ecco. Comunque riprende e fai girare, L'antenna si tocca, già lo credo, avanti, non mi ricordo, così, non mi ricordo. Yeah. Cioè così. Allora, da Gianmarino, buonasera. Ciao, ciao. Sentiamo dopo, dai, scusa. Sì, ok. Andare. Sibili a Dio, signor Bacchi. Sì, io, lo riprendo io, no. È così la vita. Oggi vento, bottiglie vuote c'hai tu. Bottiglie vuote, fai immagazzinare la voce. No, per metterci il vento dentro, te lo conservi. Andiamo. Almeno in estate c'è il vento. Se ti serve il vento. Non è così, grazie. E allora, il vento vivo sempre, ma non se ne deve venire tutti i gurruti, no, solo il vento, vero Bobbo? Vero. Eiu. Oh, Bobbo, oh, poco tempo fa qua sotto c'era una macchina con i bomboli intranciti, l'hanno fatta pure a tutta. Non è che era la tua, no? Una macchina aperta era. Ma non trava bianco, è di voi, di quello di via D'Annunzio. È un furgoncino bianco aperto era. Là ne parcheggia dei chivi, eh? Ne vedi poco di ganna a rassegna, di boh, ma il padrone il gatto dei chivi. Quando l'hanno invitata tutta e la macchina è rimasta ivi, tutta la ribbiosa, forse la becca, chi se la macchina non ha entrato con i bomboli? Sicuramente si avrà la cattolica, va attaccata e si sta buttando macchina e bomboli. E da via D'Annunzio ne ha furata pure una, ma sono un amico mio, caricato i bomboli, l'ha scappato tutti i disco di Mario Rosicino. Infatti quello lì, rosso era, quello l'ho letto su Facebook, quello lì. Ma che da bianca era sotto ai nuovi, io sta tutti, vicino al campetto lì, dove c'è quel campetto che giocano a palla o a calcetto. E dai che di vicino, già veniva poco niente a rastrendi, ha detto, boh, strano. A me mi pareva le comincio che era, c'era le bucce nei bomboli, invece era le bizzichenne. Sì, la macchina di voi, io lo so che le conosco, il Giacomo. Io, ma Puruetto, cosa sta là dentro? Richiama attaccante e va a sé alla macchina. Non lo so, non è la prima volta che si vede. Per carità, ui, non fate bene, manca andare a consegnare bombole, manca la galla carica fuori del negozio, sennò beh, sempre che uno la baidenna, che sennò si ne la butti nella sotto da un altro, per carità. Non è curata in chiesa, non è curata brutta la via D'Annunzio, era parcheggiata da un negozio. Bravo, e così alla cattolicata attaccata alla macchina, la razza di gambo. E provate di no, forse che la tenne buttata in mappa, ricordamente. Ma da lanciare un negozio, ma allora era serrato un negozio. Sicuramente è stato un momento di cose, c'è la seconda volta che succede. Chissà che ne si è cadata, va. E poi vedi la buru a catena, la stella è tagliata, a chi li via li filava nella catena, no? Buru a catena si sta le buttando da ultimo. Sì, è un gioco già. Che schifo, già, poveraccio, già. Una guerra di morti, di fame. Carità. Avanti! Chi c'era? Avanti, Bacchi. Ehi. No, quella è la macchina di Mario Fui, capito? E di Antonio. Ogni poco quella c'è un vizio, se scende la macchina e lasciano le chiavi del quadro. E c'è il Simone, a imparare l'educazione. Ma non puoi lasciare, ma lì già attaccato da un quadro, sa bene che fa gli stati vidati. Non li deve lasciare, ma se si vede da lasciare un negozio, basta un attimo qui. Basta un macco, si borra, buono e morto e si innanza. Non li deve lasciare, a meno che non avvicinare che sempre con lui ci punta dei chili. Allora sì, come grazie. L'altro giorno mi ha portato su la macchiatone delle olive, no? L'ho messo dentro e il capo l'ho messo sulla suglia. Nel frattempo sistemare tutto. Oh, non ha arrivato di tempo in tempo a girarmi e che doveva garantire lo rotto dello bravo. Ha giocato un secchino, una mullata e passato correndo. Ma c'è no, che l'ha trovato quando era nell'albero, no? Vera, chi ci ha tagliato l'albero? Ma abbiamo dimostrato sì, una manna e una minuta. E io sto qui che mi vicinai, da mai tenni vera chi su di più che conosco io. Oh, chi ti ha appoggiato questa manna, ha pigliato la minore che la tagliato nelle rame, una volta l'ha tagliata. Chi ti chiede, vicinai, dove? Ha pigliato la manna, si è battato in giro, poi mi lo distratto con un ghiglio a fianco i chiedi. E si è avviato quella moto della manna. Che ha tacciato di più? Magari mai si può fare questo imbecille. Mi chiederebbe se che giù e curando noi che cosa, gatto? Lo pigliacco e se lo a fianco. Solo che lì sarà poi venire a turrata, a chi per la sua e tu se l'ha immaginata. Se noi l'abbiamo venduta, mi dice come tutti, andate se l'ha venduta. Sapeva a partire sera venire una regata, chi dai suoi si chiamava regalabilini. E l'ha detto burrito, con la faccia del gatto. Cosa ma tu mai visto a me? A me da come ti sei va vedendo, la furmina qua da chiedo. Ne abbiamo fatto pure la dentiera, ne abbiamo fatto pure anche su. E ma guarda che faccia di cannavi, va a fare il danci segni, e di segni raccagliati pure un luglio. La giuvicciuesa e no, che... per carità, che... Tu senti che ti chiedi che ti vengono più, non ti accogli di bombola. Fai bene, ma beh da capo mi la devi scudire, è nata le mani, è nata là che mi hanno camminato. No, tu sarete a figlia, ragazzi. Per carità, non ti volevo poi fidarvi un cazzo, pur usata un altro e tieni pure nella dorsa, roba a macchina. Ma tu dovevi vedere la scena, che dichivi, dichivi ha rombato, fumato, come si è appoggiato vita, ha pigliato la minore che si è girato, chi tu l'ha pigliata e si è avviato. Ma è un raggio, avanti, sole. Grazie, la cari a formarci a Iosu, vicino a casa tua. E chi vi ha già usato la macchina, chi ti ha pigliato si è appoggiato nello sportello, nella rampa nello specchietto, mi dice la rampa. Ha detto, vai da te, vedi se nello rampa ti rampa un gabbo, ti rampa. Ha già cosa mi ha detto, ha girato le cose, l'ha detto. Ha detto, fatta da danza che ti rigiro subito, ti rigiro. E ne si lo avrà detto, dov'è la enoghi tu? A chiamare, sai cosa so fare? Mi trattano lo specchietto, il vetrino, se ci riescono, non te ne trattano lo specchietto. Chi dicevi fa buccarsi, no? In faccia, in un butto. Allora la romba nello specchietto e si fa in un butto, in faccia, e nella tempia, la giubicchia. E dunque mi sono intrancenni i vetrini dalle mafie, ne hanno staccato pure a me figliola sotto la nuca, il vetrino solo sono riuscito a tirare, e lo trattano in bagliccio. Ma poco da fa mi va via con me, ha chiamato lo gradito, sta fino ai loghi, ha lasciato le macchine dell'altro, e che su tipo non è adatto a te, l'ha detto. Fatto grazie. Stati hanno rubato. No, a me niente, dalla macchina di mia figlia, il mese scorso, ne hanno staccato il vetro dello sportello, il vetrino dello specchietto. Perché adesso lo usano, lo appoggiano e si va a tenere un gozzo, e la tempia, con preso, fa vedersi, no? E ne sono fatti strage di specchietti. Ha detto. macchina nuova? No, la macchina nuova dormi in garage. No, la nuova. La macchina, l'altra di mia figlia. Ma pure vecchia. Pure vecchia, la dice il nuovo. E se la dovuto comprare attaccato il vetrino. Il vetrino solo ne le hanno tirato. Tutto lo specchietto non vedo reddito. Il vetrino allora hanno staccato, capito? Quelli sono adesivi attaccati. Io dico una cosa, ma perché non muore questa gente? Cosa c'è? No, sta gente che dinni di uno. Tu devi vedere la cena che ci vuoi arrivare a sera. Era cialato, verso le 9:20. Arrivi con una pulita leva minore, l'abbia un'altra macchina, a prendere l'accendino e si incendia due della macchina, io non che da un'altra. Ha cominciato a correre prendersi un buco. La macchina, ma qua giù tu gli visa un campetto con l'estintore e venirà in sudata, ha preso giù i pompieri, i carabinieri, un casino qua. E che imbecille se fosse un buco alla sura, fuggendo il studente, sì. Una via ma correndo vita. Uca, e a tu? Quanto può arrivare a casa tua? Sì, 9:20. Ma che è Natale? La magnetica dentro casa. Magnetica? Eia. Ma sei morti, no? Vabbè, ma è... Basta, carità. Ora tra dentro casa, non funge. Ma poi pure cura. Ho notato che cioè, mettendola dentro così va meglio, se la metto fuori o con una recessione. Allora per la cosa che non va. Sì, va. Che sto facendo basso. Avanti, Bacchisio c'è ancora. Sempre qua, sempre presente. Bene, però adesso non sono assente perché devo lasciarvi. Bene, signori, vi saluto tutti, Antonio, Sole, Graziano e Luca, e anche agli amici in ascolto. Bacchisio è presente, passa in QRT, caso non l'ho chiamato. A domani se coincide. Ciao a tutti e un buon questo ancora. Avanti, grazie. Ehi, ciao Bacchisio, ce la presentiamo alla prossima, e anche io ne approfitto, dai, mi devo fare l'insulina. Ciao a tutti, ciao Bombolo, ciao Luca, ciao Tore, ciao Gian Maria, se sei in ascolto, ciao Marino, e anche chi è in ascolto. Ce la risentiamo alla prossima, vai Tore, rilancia a te, ciao, aspetto il finalino, ciao ciao. Ok, ciao, grazie, ciao Bacchi, statemi bene, ok, ti prendi Luca. Ciao, grazie, ciao Bacchiglio, dai, ascolta la Paoletta, grazie. Anche la parte di Marina, la prossima, ciao, avanti a tu. Ciao, anche a te Bacchisio e Graziano, ce lo risentiamo alle prossime. Luca, sai cosa ti conviene? Il mattone 27 ti conviene, è più un bastante da inchiere. Sì, ma oggi mi piglia tutta, comunque adesso ti ascolto un po' sastro. Sastro mi ascolto. Poi io sto, confermi, un po' sastro la radio di Antonio. Eia, appena appena però. Ma non so se delle cose dipende dalla radio, se... Boh. Guarda, vabbè, adesso. Adesso è chiara. Sì, già lo so pure io, ma no. Ma io dico ciò, tu vai attaccarti alla macchina degli altri, però tutto si prende, uno sta. Uno si deve lavorare, tu, non è altro regalato. E poi sono troppi, si compromessa. Sì. Però ma tu cambi la macchina, poi no. Si fa poi già andare a casa tua già a per un campanello. Guarda, a me quello che appoggia la macchina che mi tocca lo specchietto. Ah, gli tu cosa? Ne si dovrà dire, ne si dovrà. Bene, dai, no, chi sono i fatti? Già lo credo, via. Però gli accoglie. Infatti, gli te lo avrà detto. Tira a tiro. Anche la macchina era mia. Ma di dirmi nuda. E cosa cazzo della gente? Oh, è da te che mangiò il vetrino, l'ho preso. cambio vetrino non si staccano quelli, anche se sono ben collati non si staccano così. E purtroppo gli San Marmaglia che i chivi spoglia Luca, se riesco a trovarla mi pare che non è una più, se riesco a trovarla si chiama un po' che si spesso, però che si può. Ah, hai visto, ma ora mi ci vuoto la locodanna. Ho detto. Prova, prova, mi sei? Sì. E allora mi ha condannato. Anche se mi prende, d'accordo. Sì, adesso ho preso in mezzo, andiamo. Che sto cercando di dopo un rosso. Ah, vabbè, poi mi chiamate qualche sotto. Lo so che non è solo il tuo. Aiuto, grazie, no. È un'ingiustizia, vai. Vabbè, ma non è che ci puoi difendere un coltello, li accoltellati pure. Ma cosa che ha accoltellato? Che ha fatto un pezzo da che ha trovato un giudice pezzo di merda. Si è fatto omicidio. Luca, sta uscendo a tratti. Adesso prova, ora prova. Oh, sta uscendo a tratti. Guarda un po' adesso, uno, due, tre, prova. Si è a tratti, a volte va bene, a volte si è a tratti. Il microfono è detto, anche più staccato, lo devo tenere in fila. Adesso prova, ora. Vabbè, che tu sei con sattivo. Qua non c'ho niente, capito, a casa. Ah, così è, andate. E adesso taglio tutto lo spinotto, faccio tutti i fili nuovi, lo sistemo per bene. Ah, io sono parecchio, vedete, non viene così, no? Questo è un mobico. Andiamo a bene, già. Va bene, sì, adesso vado alla porta, aspetta. Via. Ragazzi, io mi ho fatto un piacere, vi devo salutare. Dopo, davvero mi chiede. Saluto a tutti, Luca e a te, Sole, se non mi sbaglio. Ci sentiamo alle prossimine. Sì, ok, ciao. Ah, Antonio, così è. Sì, Antonio Popolo. Sì, ok. Luca! Mi ha fatto, dai. Ma io non l'avevo tutto. Sono stato anche io tra un po' via, a cena. Sì, andave così, vabbè, là. Tre pigliati di alta canta. Sole, quanto ti arrivo lì? Vabbè, 20. Grazie. Possiamo un po' di conto perché abbiamo un po' di tempo per la roba, però c'è abbastanza. Ok, dai, vi saluto tutti. Ci sentiamo da Luca e Assessore. Ciao, compro molto la sua radio. Non farà che niente, sì, a voglia. Vabbè, ciao Antonio. Sì, ciao, ciao. Tu già alla prossima, ma a tratti sto uscendo, prova! Oh, mi stai tenendo tutti i letti, so. Io mi stai tenendo quasi tutti. Mi stai tenendo tutti. Ah, ma si scende appena gracchiante. E vabbè, là, ma tutti i dini. Sto mettendo a potenza viva strappa. andiamo, là. Una base buona, là. Ci sentiamo Luca, alle prossime, magari domani, se no fa zeva. Sì, dai, ciao, ma è Lubru, là, domani, ciao, buonasera, ciao. Sì, ok, ciao.